che è un eccellente piccolo editore di Benevento, che di solito non pubblica in italiano, sostanzialmente supplicandolo di venirmi incontro anche in vista di quell'occasione lì. Ha detto di sì e il libro adesso è nato. I racconti, più che essere racconti in senso tradizionale, sono delle sperimentazioni con la forma narrativa breve, nel senso che di racconti se ne scrivono già molti. Io personalmente sono stato interessato nel corso degli anni in cui questi racconti sono nati a sperimentare un po' le strade possibili che può prendere una storia o una prosa che si risolve nell'arco di 2, 10 o 20 pagine. E in effetti sono racconti in senso abbastanza eterodosso. Ho già detto che quindi sono nati in vari anni, diciamo che sono una parte del prodotto che sono riuscito a scrivere quando insegnavo alla scuola media, che è appunto un lavoro di trincea che ti lascia poco, che poco tempo per leggere, non parliamo di scrivere. La maggiore sofferenza deriva dal poco tempo che hai per leggere. Ecco, e la forma di questo libro, così com'è, divisa in tre parti, con 3 racconti, è assunta lo scorso autunno, quando ho potuto usufruire di una borsa di scrittura all'Accademia delle Arti di Berlino, un onore eccessivo, che però mi ha permesso di lavorare una novella nuova che devo ancora rivedere, e di mettere a posto questo libro. Ecco, non lo so, io credo che... Tu cosa dici? Tu hai già guardato qualcosa? Hai avuto delle impressioni? Scabroso. Sì, no, non scabroso, però ho trovato un po'... C'è sempre un certo ammiccamento. Sì, che è allora, presente. Siccome qua le piccole case editrici... A volte comunque... mi sembrava un po' che calcassi troppo la mano su... Ho detto anch'io. Allora. Che non fosse necessario proprio parlare esplicitamente di certe cose. All'inizio o alla fine? Non lo ricordo, più verso la fine mi sembra. Ok. No, ho capito. Abbiamo detto che potremmo soffermarci sull'evoluzione dell'estetica dell'erotismo nella letteratura negli ultimi anni. Io sono convinto che ci possano essere non degli eccessi, però degli squilibri dal punto di vista dell'estetico, cioè che in un certo tono magari stona, se a un certo punto invece calca all'improvviso il pedale dell'erotismo, o più che dell'erotismo, della sessualità in una certa maniera. Ho fatto l'esempio di Houellebecq, che è un autore molto spinto, che però è stato capace di trovare secondo me una poesia della sessualità, che qua forse appare solo in un racconto, mentre per il resto diciamo l'elemento erotico ha un altro tipo di esito. Però ecco, siccome l'erotismo non è l'unica cosa, poi magari diamo qualche assaggio di questo, e siccome la casa editrice è piccola, e quando la casa editrice è piccola ti chiede di scriverti anche i svuoti di copertina, vi leggo i svuoti di copertina che ho scritto io. Anche se è terribile dover cercare di scrivere, di dire qualcosa di apologetico su se stessi, cioè devi essere un po' per... Infatti con un po' di tormenti sono riuscito a scrivere anche l'ultimo paragrafo. Però siccome poi si parte da questo, non so, l'avete letto tutti? No. E dice, a 30 anni, nell'età in cui si dà il massimo di sé, sto dimostrando, Tiziano ha un incidente. Rianimato, il suo cervello è perduto, Tiziano vegeta. Franco osa un ritratto del suo amico più caro, ne racconta la passione giornalistica e politica, sorride di un suo tradimento e si chiede, è ancora vita questa? O è soltanto insensata appartenenza alla natura? Livio, di anni 27, conduce un'esistenza sonnecchiante tra le Alpi e vagheggia un meritato posto al magico sole artificiale di Antibi. Un suo conterraneo, appena più maturo, vive la morte del nonno e il rifiuto di una donna come duplice iniziazione a un precoce cinismo. È vita la loro routine meschina e provinciale, lontana dalle crude imperfezioni della storia? Questa è una citazione. Chissà, forse la vita è sempre altrove, nelle grandi metropoli con le loro infinite occasioni e malie, nell'epoca perduta in cui anche un proletario poteva diventare un grande attore, oppure semplicemente in un amore impossibile. O non sarà invece questo bisogno di sentirsi al centro delle cose una mera illusione, l'inganno moderno che impone a ciascuno di anelare al successo e all'eterna giovinezza? E poi si dice che ci sono 10 racconti con temi, solitudine, amicizia, amore, infedeltà, eros e morte, fama e normalità. e su tutto la sua ironia nostalgica. Allora, questo per dire che il titolo stesso, Quando si vive, andrebbe, io l'ho preso da, beh, l'ho preso da un piccolo saggio di Claudio Magris su Ablamofti Goncharov, contenuto nel volume Itaca e Otto, una raccolta di piccoli saggi, dove a un certo punto questa frase compare come domanda: quando si vive? Punto di domanda. E questa domanda viene declinata qui in vari modi, per esempio nel vegetale di un trentenne al quale si è addormentato per sempre il cervello. Questo racconto è nato nell'epoca in cui c'era il caso Huelva, molto. Oppure nel caso di un ventinovenne che si sente escluso dalla vita e dalla storia perché è eroticamente solo ma anche separato dai propri cari. Oppure nel provinciale che sogna il successo o che sogna le metropoli. Cioè, in tutti questi casi, in maniera diversa ci si chiede: ma è vita questa? Ma sto vivendo veramente? Sono domande, ovviamente, come posso dire, viziate, nel senso che poi non dovrebbe chiamarci. Vita è comunque questa. E ovviamente questo trova anche declinazione sul fatto che la vita è vita quando è semplicemente biologica, o per essere chiamata vita deve avere anche qualcosa di più spirituale. E sono questioni ovviamente complesse che questo libro affronta in maniera relativamente leggera, ecco. E siccome, appunto, essendo in pochi, forse la cosa migliore che posso fare io è provare a leggere degli estratti per spiegare come si declina un po' questa tematica. Quindi il titolo comunque l'hai pensato tu fin dall'inizio? Il titolo l'ho trovato sul libro di Magris, ho detto è questo. Quello che, insomma, sì, volevi. Sì, non mi è stato modificato. Questo sì, è stato così, una cosa di un anno e mezzo fa. Vabbè, no, io voglio provare forse a leggere qualcosa, la cosa migliore. Il primo raccontino, che è molto breve, è una sorta, con una bellissima parola tedesca di Einstein, che si può tradurre molto infedelmente come introduzione nell'atmosfera del libro, e che è un raccontino molto poco in realtà empatico, perché infatti l'atmosfera del libro è sempre alquanto distaccata, e si chiama Pausa Caffè, e comincia con una citazione finta. E dice: è ingenuo credere che il fine dell'amore sia la felicità degli amanti. Chiunque abbia un minimo di esperienza in questo campo ha conosciuto la propria infelicità amorosa. Non c'è che la riproduzione, ecco l'unico fine dell'amore. Firmato R. Renardo. Che banalità, commentò Lucio succhiando il cioccolatino. I sensi, ancora irritati dal traffico, resistevano adesso storditi tra gli effluvi di caffè, voci sconnesse e il tinnito di acciaio e ceramica. Appallottolò il bigliettino rosso e lo gettò nel portaombrelli vuoto. Prese un sorso dalla tazzina e, muovendo tra i denti il liquido bollente, sentì l'ultimo strato di cioccolato sciogliersi sulla lingua. Lo assaporò. Qualcuno lo urtò con un gomito. Alzò una mano e si rivolse alla barista: ne prendo un altro. Oltre il bancone, a pochi metri da un piano d'alluminio, un ombelico socchiuso tra due palpebre verdi gli badò appena. Scartò, infilò in bocca il cioccolatino e dispiegò il nuovo biglietto sul bancone. Se vi amerete senza volervi bene, la vostra non sarà che una passione senza affetto. Cecità. L'infelicità della vostra relazione esprimerà agli occhi del mondo il fallimento dell'amore romantico come sogno personale e collante sociale. Firmato G. Fourier Buffon. Mio Dio, sbottò Lucio. Che razza di roba è questa? Mentre appallottolava anche il secondo bigliettino, la voce della barista gli suggerì: se non le piace il cioccolato amaro, provi quello al latte. E un avambraccio nudo gli indicò un cestello azzurro vicino alla cassa. Lo sguardo di Lucio restò fisso su quella nudità. Veramente non... Da quanto tempo non riusciva più a vedere una donna intera? Rovesciò in gola il caffè e, prima di estrarre il portafoglio, allungò una mano verso il cestello. I rumori secchi della cassa suonarono come una cacciata. Ma che altro era quel bar se non un'altra bolgia di passaggio? Riecco, rombi e caligine, nessun varco. Era ancora sulla soglia quando, succhiando a malincuore il cioccolatino al latte, non tollerava il cioccolato al latte, lo stuccava e gli procurava dolorose vescichette all'interno della bocca. Lesse l'ultimo bigliettino. Quanto più amo, tanto più ho in odio la morte. Ah, noia. Una folata di vento fresco gli rigirò il foglietto tra le mani. Alzò gli occhi. Al di là della strada, oltre i tetti dell'istituto, si addensava in grandi nubi il plumbeo annuncio di un temporale. Si voltò un'ultima volta, mirò il portaombrelli vuoto, poi scavalcò con uno sguardo gli altri corpi, ma la barista era girata di schiena, china sul lavandino, e il bancone le tagliava la figura all'altezza dei fianchi. Lucio alzò le spalle. Tanto più in odio la morte, pensò, e si gettò in strada, zigzagando tra le auto. Sì, non si sa che fino a... Scusate. Ecco, questo è un modo abbastanza distaccato per introdurre alcuni temi. E nel senso, vabbè, questo racconto è un attimo indipendente. Tuttorino è un personaggio, non so se si capisce che sia un personaggio abbastanza solo. Non vedere una donna intera è un segno un pochino della frammentazione della percezione erotica che c'è oggi. La stessa pornografia, per esempio, ha portato l'immaginario maschile a confrontarsi molto più con le zone anatomiche e basta. E questa cosa è tradotta qui come la semplice percezione di uno solo, che probabilmente non vede una donna da molto tempo, un uomo di mezza età, non lo so, che non fa altro che appagarsi dei brani di pelle che vede nella barista e le cose verde delle cose. L'ombelico, io immagino che avesse, non so, una maglia verde o qualcosa del genere. E le citazioni che trova nei cioccolatini un po' ironiche, un pochino, non ci sogneremo mai, tra un bacio perugino, dice l'amore romantico come collante sociale, un fallimento. Però lui si confronta con questa forma degradata, diciamo, dei pensieri sull'amore, anche perché proprio non ha altra possibilità di contatto. E forse questo Amic introduce più che altro una tematica tra amore e solitudine che contraddistingue abbastanza diversi personaggi di questo libro. Su tutti il protagonista senza nome del secondo racconto, che si intitola Il sole contro, di cui vorrei proporvi i primi tre capitoletti, con una precisazione. Prima in treno parlavamo di questo. Il problema oggi di molta lettura, che quando i racconti sono raccontati in prima persona si tende a confondere il personaggio che dice io con l'autore, tanto più se si inseriscono esperienze personali. In questa cosa da legge, per esempio, ho aggiunto sicuramente delle mie esperienze rispetto alla morte di mia nonna, eccetera. Però a me imbarazza sempre quando qualcuno mi dice, poi c'è quel punto dove tu sei lì che stai facendo io, non sono io, c'è un personaggio che magari ha un suo nome, magari non ce l'ha, ma che ha una sua coerenza e al quale io presto brani della mia esperienza personale perché siano coerenti con quel personaggio, perché gettino luce su quel personaggio, su quello che Kundera chiamerebbe un io sperimentale, una possibilità dell'esistenza. A me interessa questo, non mi interessa raccontare i fatti miei. Al contrario, semmai. E quindi, ecco, lo dico perché questo parte in prima persona in maniera abbastanza secca, o comunque dove facile per chi mi conosce scorgere elementi, per così dire, autobiografici, però non c'è nulla di autobiografico, la letteratura non c'è, almeno la mia idea è sempre quella di creare dei personaggi, dare loro coerenza ed esplorare degli aspetti dell'esistenza attraverso di loro. È una cosa che oggi interessa meno dei racconti delle storie vere, però non ci piace, a me piace così. Il sole contro, capitolo primo. Mio nonno paterno finì di morire un venerdì sera di febbraio. Il giorno prima ero andato a trovarlo in ospedale, dove mio nonno lo assisteva ormai senza pause. Lo trovai con un braccio alzato e le dita stanche puntate verso il muro di fronte al letto. Abbagliato dalla luce del sole pomeridiano, che riscaldava la camera attraverso i vetri opachi delle finestre, diceva a mia nonna, chiudi la porta, non c'era nessuna porta. Il sabato feci visita alla salma. Mio padre, mosso da una serenità inconsueta, mi fece strada nella camera mortuaria. Non c'era nessun odore, solo il corpo ben conciato e ben vestito di mio nonno nella bara, le mani intrecciate sul ventre e le mandibole sorrette dall'apposito sostegno. Era la prima volta che toccavo un corpo morto. Tastai la fronte fredda e sentii il cranio muoversi appena, abbandonata a un'inerzia che mi gelò. La mia curiosità verso la morte nasceva da un complesso di inferiorità. Avevo quasi 30 anni, prima di allora non avevo ancora conosciuto da vicino il volto della fine, mentre tutti intorno a me, anche nel benessere ovattato della mia stessa provincia esistenziale, gente molto più giovane era costretta a farci i conti molto presto e in modi ben più brutali. La curiosità di mio padre, con il quale condivisi lunghi minuti di stupore per la quiete che sprigionava il volto del cadavere, era di un'altra specie. Sentivo avanzare l'età, cominciava a prepararsi. Ecco, il mio vero padre può confermare che non è detto che lui abbia pensato così qua, non c'entra grande esperienza. Anche mia nonna quel giorno, quando la incontrai fuori dalla camera mortuaria, sembrava serena. Poi, appena fu dentro anche lei, i suoi occhi caddero sul corpo del marito e la voce le si ruppe in un pianto a dirotto. In quell'istante il mio cellulare fece bip bip. Uscì all'aperto e lessi sul display il breve messaggio di un'amica che qualche sera prima, al tavolo di un bistrò, mi aveva confessato poco prima di congedarci che anche lei mi desiderava, e molto. Rilessi più volte il messaggio e mi eccitai a dismisura, fino a battere i denti. Qualche giorno dopo le esequie, ero a cena dei miei, venni a sapere da una cugina di mio padre, una poliomielitica di fede comunista, che mio nonno non era figlio di suo padre. Il cognome di cui sempre da bambino mi aveva esortato ad andar fiero non era il suo. Sua madre aveva avuto un'avventura con un soldato del meridione durante la guerra. Più tardi, l'uomo che la sposò riconobbe anche quel figlio naturale. Si spiegava così perché mio nonno, nel suo paese dell'Alto Cadore, veniva chiamato il Moro. E io, che per anni avevo fantasticato su lontani antenati iberici, mi spiegavo finalmente la mia pelle olivastra. Sperai che quel soldato fosse stato siciliano, perché i grandi uomini d'Italia vengono tutti da lì. Interpellata su quella rivelazione, mia nonna negò tutto e non volle più parlarmi. Mia sorella gridò allo scandalo. Mio padre e io, spiati da mia madre che serviva, ridemmo di loro e ci mettemmo a tavola. Ci sembrava un epilogo adatto alla biografia di quell'autocrate sensibile e ironico che era stato mio nonno. Una biografia che nessuno, temo, scriverà mai. La morte ha un senso soltanto per chi le sopravvive, o al contrario? Quando mio nonno morì, conobbi il suo segreto e per la prima volta nella mia vita credetti di comprenderlo. Allora ricordai la luce del sole che lo abbagliava in ospedale e per un tempo che non durò provai nostalgia della sua porta inesistente. 2. Quella successiva alla morte di mio nonno fu una primavera di grandi scoperte. E bella anche quando mi accontentavo. Frequentavo diverse donne che mi accordavano la fiducia del confidente e alcune di loro ci stavano. Cosa potevo chiedere di più? Una sera ero in un bar con Sandra, un'amica con cui ero stato anni prima. Seduti a un tavolo in penombra, sorseggiavamo vino rosso e parlavamo d'amore. A un certo punto, nell'avanzare una proposta indecente che, seppure non raccolta, mi permetteva già di immaginarmi nella situazione, mi ritrovai così immedesimato in quell'idea da percepire all'improvviso me stesso e il mio volto, in modo assai brutale, come corpo, e come corpo vecchio, o meglio, adulto, voglio dire già in discesa, in via di invecchiamento. Sentivo la grandezza abnorme della mia testa, la scarsità dei capelli, l'invadenza metafisica dei denti, la minaccia delle rughe sulla pelle. E tutto ciò mi fece sentire, come mai prima, somigliante a mio padre, a quell'adulto invecchiante di mio padre, al quale non avrei voluto assomigliare così tanto, e che invece ripetevo anche per la qualità catastrofica della mia memoria, per la mia penosa condizione di amnesiaco alla quale non potevo porre rimedio. Ormai ero in discesa, avviato anch'io alla morte, e i miei limiti non avrebbero potuto che peggiorare e peggiorarmi. In quell'istante mi sentii così vecchio e pesante che la mia competitività erotica mi parve compromessa per sempre. D'ora in poi pensai non potrò più avvicinarmi serenamente a una donna nuda. Sandra ruppe i miei pensieri con un brindisi, e per consolarmi o forse riconquistare il mio orecchio dopo il rifiuto, prese a raccontarmi un recente episodio di impotenza del suo ragazzo. Alla fine dovetti fingere di trattenere le risa. Sandra mi aveva rifiutato. Avevo solo 29 anni, ma già credevo di capire che il mondo in cui vivevo mi respingeva ai margini del grande spazio in cui si lotta per la vita, per la sua riproduzione. Era un giovane uomo piccolo borghese più o meno acculturato, una categoria decisamente imperniata. Mancavo di virtù concorrenziale. Al tempo stesso, tuttavia, persisteva in me una tensione, la voglia di appartenere a quello stesso mondo che mi stava rifiutando. Insomma, era un brutto anacroco. Avevo solo 29 anni, non avevo ancora maturato un rifiuto del mondo, mentre esso sembrava già darsi da fare per rifiutare me. Lo avrei odiato per questo, per avermi rifiutato, e me lo sarei inventato solo allora il mio rifiuto, dopo essere stato io stesso rifiutato. Avrei celato così la condanna del mondo, falsificando le sue carte e menando vanto di una libertà inesistente. D'altra parte, il fatto che prima o poi dovessi maturare un rifiuto del mondo non era affatto scontato. Perché mai avrei dovuto farlo se era lo stesso mondo in cui potevo ascoltare le confidenze delle mie amiche e avevo scoperto di avere un antenato proveniente dall'isola dei Geni? Capitolo 3. Una notte di marzo la passai con Irene, l'amica che mi aveva mandato il messaggio sul cellulare mentre ero nella camera mortuaria. Eravamo talmente infoiati che dopo una sua breve rassicurazione a fil di voce ci affidammo senz'altro alle teorie di Ogino e Knaus. La mattina dopo non ricordavo niente, anche se avevamo bevuto pochissimo, ma trascrissi in un taccuino i pensieri evocati dall'odore del suo sesso sul mio cuscino. Citazione. non viviamo la vita, ne siamo vissuti, parlo in termini biologici. La vita ci domina suo uso e consumo, ci accattiva con il piacere dell'orgasmo per riprodursi al di là di noi, suoi tramiti pensanti e sofferenti. Apparteniamo interamente alla vita. Se ci dovesse essere un disegno, come affermano gli uomini di fede, questo apparterebbe esclusivamente alla vita, non ci riguarderebbe che come mezzi casuali e provvisori. E siamo indifferenti, non ci è riconoscente. La serviamo, nient'altro, le serviamo. Siamo schiavi della vita. Come si può amare il proprio tiranno? Due giorni dopo il coito, Irene mi mandò un nuovo messaggio in cui mi invitava a cena. Rifiutai con questa scusa, in barba alla vita, perché sapevo che voleva stoparmi il regino Knaus. Se invece avessi avuto il presentimento di una semplice serata in compagnia tra persone amiche che si vogliono bene, avrei accettato. Volersi bene, pensavo, è l'amore nella sua forma perfetta, disinteressata. I greci la chiamavano agape. Contro la vita non ci resta che l'amore, o al limite la clonazione. Contro il desiderio, comunque, l'amore. E qui sarebbe d'accordo con Cristiano. Contro la finalità dell'uno, la gratuità dell'altro. L'amore rende liberi, in barba alla vita. Poi ci sono altri due capitoli. Bravo. Con una nota, da quando mi è nato un figlio, non sarei più capace di scrivere delle parole così, perché ci sono anche, c'è anche una mia opinione, cioè sono convinto. Anche lei un po', non mi esprime anche in volesse. Sicuramente, però quando prima che mi nascesse il figlio ero molto più convinto di questo punto di vista di quanto non lo sia adesso, nel senso che comunque la nostra appartenenza alla vita è capace anche di procurare, o comunque di accattivarci attraverso delle gioie, che qui non risultano perché il personaggio è un personaggio solo, un personaggio che cerca nelle relazioni accidentali un qualcosa che non può avere. E certo, ecco, in molti personaggi sono disincantati. E questo è un modo, no, di dire quando si vive. Non so se tu vuoi, se qualcuno vuole dire qualcosa. Penso al romanzo di Egon e penso che questo lo godrò molto di più, perché quello mi faceva, mi veniva mal di testa per capire certi concetti. Tentavo di parlare troppo presto. Perché questo sono l'inizio. No. Pensavo, dico, questo siccome vado al mare venerdì prossimo, ho detto me lo porto. Potrebbe essere quello eterno al dibattito su Dio e intorno. Ah, vabbè, siamo a posto. Infatti, a questo punto ti posso leggere solo l'inizio del racconto che viene introdotto come primo. Mi dispiace, i miei amici Valentino e Antonio mi porterebbero a leggere il racconto centrale del libro, non a caso centrale, che si chiama Anima Bella, che è l'unico racconto ambientato a Bolzano e che tematizza una possibile, non l'unica, condizione esistenziale a Bolzano, perché parla di un giovane 27enne con delle ambizioni quasi da rockstar, vorrebbe diventare, appunto vorrebbe finire su MTV, e il racconto è raccontato in maniera molto complessa in realtà. Ogni capitolo sembra staccato da quello successivo e alla fine del racconto si ha in mano solo una situazione, non una trama, che molto frammentata, nel mezzo della quale c'è perfino un momento di straniamento in cui c'è l'autore di questo racconto che appare affiancato da una prostituta slava, quindi molto difficile. E tutto questo è volto a esprimere la posizione di quel giovane, quel 27enne bolzanino, che è una posizione di tanti, che mia adesso non, francamente non lo è più tanto, ma è che quella per cui a Bolzano non potrebbe nascere una storia, perché lui è convinto che lui lo dice, Bolzano è un vicolo cieco della storia, con l'S maiuscola, dice a un certo punto, no? Ma questo è un po' il tuo pensiero da sempre. Beh, io sono uno di quelli che sono fuggiti, scusi. Ma nel senso che Bolzano è un vicolo cieco che non può... Nel senso che non niente vuole. Prende il volo, niente si libera. Questo è un luogo... È un pensiero che è a maso chiuso. Sì, però... Attenzione, perché questo è un luogo comune molto diffuso e pericoloso. Ne parlavamo con Marta all'ultimo pranzo. In realtà a Bolzano succedono molte cose, ce ne sono, è un luogo comune quello che fa, anzi forse Antonio lo può confermare, conoscendo diretta dall'interno di queste cose qua, ne succedono molte, e forse si può discutere su Ecco, una cosa forse vera, a un certo punto si parla di voliera, forse ci può discutere sulle dimensioni della voliera, che è l'Alto Adige, per cui anche se dove ci sono gli uccelli pregiati che cercano di prendere il volo, può darsi che ci siano delle circostanze che impediscano veramente di prendere il volo, no? D'altra parte prendere il volo vuol dire prendere anche andare, a un certo punto, per poi tornare, per appunto uscire forse dalla voliera. Forse si può discutere sulle condizioni di miglioramento appunto di questa situazione, però io oggi ho un pensiero diverso, questo racconto è stato scritto nel 2003. Quindi è una sorta di condizionamento che abbiamo. Secondo me sì, tendiamo un pochino a pensarlo. Io ripeto, io questa è una possibilità, è sempre un personaggio. Non sono io, è un personaggio che vuole diventare qualcuno che lavora in un istituto veramente degradato, dove l'unica mostra che trova è una mostra sulla storia degli autobus di Bolzano. Cioè sì, una cosa, era un po' così, no? Simpatico. Cioè, che poi l'istituto si chiama Istmo. Istituto moderno, però l'istmo è anche quella lingua di terra che divide due terre maggiori, che sono la sua giovinezza e la sua età adulta, quindi la sua anche condizione a un certo punto, di questo che vuole fare successo. E, ecco, a me premeva solo qualora lo leggeste, darvi una chiave di lettura per non rimanere troppo basiti di fronte magari alla frammentazione. L'impressione che ha già percepito anche da altre persone, nel senso questa frammentazione all'interno di quel, cioè, come certo. Si coniugano varie, perché a un certo punto si inserisce tipo lo spupuz, no? Esatto. Che uno dice, ma cioè lì c'è, poi c'è un momento di sbigottimento. Ci sono, c'è lo Sfonbozen, che è uno slogan della destra tedesca, che viene applicato per lui che dice un giorno me ne andrò da Bolzano, no? Quindi è un uso parodico. E c'è anche Ein Tirol, che viene usato per dire che lui a un certo punto è in una situazione di sogno, tutta la prima metà è un sogno, quando si addormenta davanti alla poltrona, quasi tutta la prima metà, dove lui sogna di, lui vuole andare in banca a chiedere dei soldi per farsi una ricerca, e il parassite vuole far succedere. E si trova nella banca del Tirolo unito. E quindi c'è una parodia dell'altro slogan, Ein Tirol. E sono tutti ammiccamenti, però il senso è, qual è? La forma deve rispecchiare il contenuto. Nel descrivere un individuo frammentato in una condizione di provvisoria, che poi è un personaggio, si vede nella parte centrale, che crede che a Bolzano non possa nascere niente, e non puoi raccontare una storia, ma puoi solo descrivere una situazione che si frammenti in varie facce. Lui a un certo punto dice non ci si costruisce per frammenti se non indulgendo alla mancanza di un'identità. E oggi ti direi, sì, ma l'identità è una roba che si trasforma, che non è una roba fissa. Però lui non lo può sapere, no? Però scusa, perché adesso sei entrato fuori da Bolzano per dire questo. Beh, cioè, prendere le distanze giovane, ma forse anche ho 5-6 anni in più, non so, dipende. E cambiamo anche, e anche noi ci trasformiamo, io penso. Beh, ci mancherebbe altro, nel senso, questo, ci mancherebbe altro, mi è capitato. Vabbè, no, penso che sia giusto così, purtroppo anche il problema delle destre politiche che qui da noi rivendicano l'identità è quello di una grandiosa mistificazione del concetto di identità, come se l'identità fosse qualcosa di solido. La basano sulla tradizione, ma la tradizione stessa è qualcosa che si rilegge alla luce del presente. Ortega y Gasset diceva sempre che dobbiamo iniettare il nostro sangue nei corpi del passato, nei corpi dei morti, che vuol dire rivitalizzare il passato, non dire lasciarlo com'è, arroccarsi su quello. L'identità di una persona singola, sentitemi voi, è una roba in continua trasformazione. Sfido chiunque a dire io sono lo stesso di 20 anni fa, non lo so. E ovviamente, però appunto, questo è nato come istanza di questo tipo. Volevo solo dare delle indicazioni a chi magari volesse leggerlo, ai nostri amici che l'hanno già letto, non c'erano capito. No, non lo so. No, questa è Gabriele che ti dice. No, cioè, io tra l'altro, bello è che quando io ho preso in mano il libro quella volta, siamo visti, io ho aperto sfogliando, sono capitato proprio lì, no? Ah, poi ho letto la cosa successiva e pure io mi ero reso conto di questa. Di questa cosa qua. Va bene, detto questo, se volete, volevo solo leggervi proprio l'intro di questa di Tigre di carta, che è un racconto lungo che tratta appunto anche del G8 di Genova, è un troppo in un senso molto ambiguo, proprio per spiegare il titolo. Il capitolo primo dice: in una tarda mattinata di fine maggio, Tiziano Penner rientrava in bicicletta dalla biblioteca comunale, quando, durante la sosta al semaforo di un incrocio trafficato, fu visto accasciarsi sul manubrio e poi crollare sull'asfalto. Il suo cuore, un organo mai adulto, che fino a quel momento non aveva dato segni di malfunzionamento, all'improvviso si era fermato. Immagino che qualche passante l'abbia soccorso, se non altro per scansare la bici e sistemare il corpo in una posizione migliore. Tiziano non darà segni di vita. Fu chiamata un'ambulanza e gli operatori sanitari che ne scesero, per ragioni che solo una mente istruita alla gestione rigorosa delle funzioni biologiche altrui può comprendere, non rinunciarono al tentativo di rianimarlo, perché benché il tempo scorresse in fretta, troppo in fretta. Che cosa spinge i singoli uomini a preferire la vita ad ogni costo? Qual è la legge che teme? Riuscirono nel loro intento dopo molti minuti, durante i quali il cervello di Tiziano aveva perduto per sempre, evaporate chissà dove, le informazioni accumulate in 30 anni di vita. Così, mentre forse nascevano in loro i primi dubbi sulla bontà del miracolo, caricarono nel furgoncino con la Croce Rossa una creatura resuscitata per modo di dire, paralizzarono l'incrocio con la molesta autorità delle sirene e scantonarono con rapidità tanto spettacolare quanto inutile verso l'ospedale. Questo è solo il primo capitolo introduttivo. Il racconto, a un certo punto si dice immagino, perché è un amico di Tiziano che racconta questa cosa, quindi già la situazione di del corpo vegetante ci mette in crisi su se questo vive davvero o no. E poi tutto questo diventa il pretesto per raccontare il passato recente di Tiziano, quindi il fatto che lui fosse uno che andava alle marce della pace di Assisi, che era stato al G8 di Genova, era tornato molto arrabbiato, e però la sua rabbia viene spiegata raccontando la sua stessa esperienza di carabiniere 8 anni prima. Perché lui prima era stato carabiniere, poi in qualche modo è finito a simpatizzare con il no global. E io poi si spiega anche, poi viene fuori i lettori gemelli. Io ho provato a trattare questi temi in questo modo perché mi premeva creare un personaggio, da un lato creare un personaggio che avesse ambiguità, che mettesse in crisi il luogo comune percepito attraverso i media, per cui i cosiddetti no global fossero tutti radicali di sinistra o facinorosi eccetera, quando non è vero. C'era gente come noi, c'erano preti, c'erano pacifisti, c'era gente normale. Certo, ci sono stati anche gli estremisti, ci sono gli infiltrati, però ecco, purtroppo i mass media come noi li conosciamo tendono ovviamente a semplificare, e a me premeva creare un personaggio per far vedere che è possibile, anche sperimentando i mali durante il servizio militare, la miseria di molti uomini. C'è il racconto di una perquisizione anale di un marocchino in un blindato che io ho vissuto personalmente, che ha prestato il personaggio, per dire che comunque è possibile, cioè non è escluso che si possa arrivare a protestare verso un mondo perché si crede in un'alternativa. Non è così univoco come spesso l'opinione pubblica ci tende a far credere. Tutto questo però è inserito in una cornice, che è questa dell'amico, cioè lui è una specie di morto vivente, da solo non lo può raccontare. Lo racconta l'amico, il quale ha il problema che la sua attuale moglie a suo tempo andò a letto con Tiziano. Quindi non si sa bene se il suo racconto è quanto è fondato, cioè volevo un po' mettere in crisi anche la verosimiglianza. Ecco, e tutto questo anche non è un intrigo tipo giallo, racconta un po' il passato di Tiziano, l'amico di nuovo fa un discorso sulla vita o no, a un certo punto c'è una scena davanti a degli uccellini che magari adesso non leggo, ma che torna sul problema, è vita questa, se noi facciamo come gli uccellini, copiamo le uova, e se invece lasciamo lì le uova, andiamo a farci una passeggiata, questo è essere uomini, lasciare le uova, non covarle, andiamo a farci, cioè lo dice lui, lo dico io. Infatti poi l'amico Tiziano dice, quando dice queste cose Tiziano mi diceva che sei fuori. Infatti tu l'hai covato. Infatti l'ho provato, io ho guardato il territorio finché la tenina provava. Però anche non tutti devono fare figli, sì, esatto. Stare anche senza figli, esatto. Voglio dire, la libertà umana potrebbe consistere anche in quello, no? E non è detto che sia più meglio, è diverso, è diverso. Dobbiamo riconoscere la diversità, no? Invece siamo sempre capaci di dire è meglio o peggio, di dare il giudizio, mai di dire è diverso. Ecco, quindi questi sono i racconti forse che più affrontano la vicina. Tu, Alessia, se hai delle cose da dire, fai pure. Sì, proprio adesso che ti stai rialzando, dice dai che faccio una pausa. Faccio una foto. Se ci sono domande, no, non voglio... Mi viene in mente che il giorno dopo la distruzione di Genova, io sono partita per il Madagascar, e la guida malgascia, che si chiamava Dudu, ha detto, se penso che i vostri giovani hanno messo a ferro e fuoco una città con la scusa di voler aiutare noi Madagascar è il paese più povero nell'assoluto che abbia visto, dice, e tutto quello che potete fare per noi non servirà mai a nulla, perché a noi non arriva un soldo, finisce tutto nelle mani dei quattro che ci governano, e quindi dice i vostri giovani sono proprio dei illusi se pensano che l'Occidente ci possa in qualche modo aiutare. Questo è possibile, questo bisognerebbe saperlo, però tu vuoi togliere ai giovani la possibilità di illudersi? No, vorrei che lo sapessero, però che è inutile che facciano, che mettano a ferro il fuoco una città che non serve a nulla. Senta, perché non so chi abbia messo a fare fuoco la città, è questo il punto. Io conosco preti che sono, non penso che un prete abbia messo fuoco a ferro e fare fuoco a genere. Sono le scene di distruzione, ma l'abbiamo viste. L'abbiamo viste tutti, io sono partita con una ma i black bloc c'è una certa sinistra radicale con infiltrati i servizi segreti, è cosa che si vede dappertutto. Non confondiamo questo fenomeno con i pacifisti. Io in televisione ho visto gente comune, deve essere proprio presa calci in faccia dalla polizia. Ma che purtroppo poi si fa di tutta l'erba un fascio. Si fa di tutta l'erba un fascio, non è possibile. Qua si dice a un certo punto, Tiziano era lì, se si è sentito tradito, perché le forze dell'ordine devono darti sicurezza, non devono tradirti. Se tu vai lì con la volontà di dire, di protestare contro questo ordine mondiale e con il diritto che la democrazia prevede, e poi vieni preso a calci in faccia, ti senti tradito, perché la polizia che dovrebbe proteggerci, permetterti una manifestazione pacifica, magari non inquinata dai facinorosi. Quello è il guaio, quando la polizia è stata oggetto di lanci, di tutto, la polizia reagisce. Ma tu credi che siano stati quelli che sono stati picchiati? Non riesci più a distinguere dall'ex carabiniere che va lì a protestare, da quello che ti vuol far fuori. Questo è il punto, però la letteratura deve dire la complessità delle cose. Se no stigmatizziamo i giovani nostri che si illudono e vanno lì a mettere a fare fuoco la città. Io ti garantisco, conosco almeno 10 persone che non avevano un fiammifero in mano. Che andavano lì, che sono più pacifiste di me, nel senso che io non ci credo. A me premeva dare. Prego, grazie di esserci stato. Grazie. Grazie. A me premeva dare un'idea di complessità. Perché una delle cose che mi offende di più è la volgarità, la semplificazione che abbiamo attraverso la televisione. In questo senso il racconto centrale comincia e finisce con la televisione. Comincia con il personaggio davanti alla televisione, con il cosiddetto presidente che esce dal Palazzo di Giustizia e fa una delle sue dichiarazioni, un presidente assolutamente sui generi, senza nome, e finisce con una riflessione sulla politica, sul fatto che lui viveva in un'epoca in cui il potere si era appropriato di parole importanti come libertà e giustizia, le aveva svuotate e le usava come gli pareva. Ed è una cosa che fra 50 anni si dirà del nostro potere, solo che adesso ci siamo dentro ed è difficile da dire. Ecco, diciamo che a me preme anche dare degli spunti critici, proprio perché ci sono anche dei racconti divertenti, adesso magari potrò venire anche a quelli, se tu non hai qualche osservazione. O voi altri. Io pure devo andare, mi perdo la punto di te. Grazie mille. È bene. Vabbè, c'è un racconto che si chiama Protocol Heart, che parla della vocazione teatrale di un attore della DDR. Nella DDR, un attore che io ho conosciuto negli ultimi anni al Deutsches Theater, che è uno dei più importanti teatri tedeschi. C'è un racconto difficile di cui non parlo. Quello dell'attore è sicuramente divertente. C'è un altro racconto che riguarda Berlino. C'è un racconto Resina che dove c'è un errore che lascio a voi trovare, che mia madre ha trovato. Drammatica? No. Proprio una. Si chiama Resina, è un racconto anche questo di una persona. No, volevo leggervi questo proprio per farvi capire. L'ultima sezione, più che quando si vive e quando si scrive. Il primo racconto parla di un autore sulla cinquantina che aveva i luoghi della propria infanzia insieme al ragazzo, un autore omosessuale evidentemente, infatti nomina Proust. Il terzo è un saggio sul fenomeno odierno per cui agli scrittori piace andare sul palco a recitare le proprie cose, e spesso sono gente che voleva diventare rockstar e per questo gli piace fare queste cose. È un racconto molto critico che dice che forse la letteratura è qualcos'altro, ma allo stesso tempo dice che anche lui, che anch'io da giovane volevo fare la rockstar. Quindi anche qua non è possibile trovare una posizione univoca perché ed è giusto così. Ma tu hai fatto anche. Io ho fatto anche il carabiniere. Anch'io. Questo qua si chiama Born to Play, un incipit in vendita. Un incipit, per chi non lo sapesse, significa inizio di romanzo. Born to Play significa nato per suonare, in questo caso. Ed è proprio l'inizio di un romanzo incompiuto. Io ne leggo meno, cioè alla fine si dice questo è solo l'inizio di un romanzo di un autore che presto terrà famiglia. Se trovo un contratto lo anche a scriverlo, se no no. Perché è, adesso capite perché terrà famiglia, perché è stato diciamo incastrato di là per lui. Vi leggo le prime tre pagine, c'è un'epigrafe, questa volta vera, di uno dei massimi autori spagnoli contemporanei, che è Roberto Bolaño, morto di recente, e dice, non ho nulla contro le autobiografie, a proposito di autobiografie, non ho nulla contro le autobiografie, a condizione che chi le scrive abbia un pene in erezione di 30 cm, a condizione che la scrittrice abbia fatto la tuttana in vecchiaia si discretamente ricca, a condizione che l'inventore di un simile ordigno abbia avuto una vita singolare. Questo per dire come la pensano gli scrittori sulle autobiografie, la vita tra i libri veri. No. Insomma, lui dice, non ho nulla contro le autobiografie, a meno che uno o abbia pene in erezione di 30 cm, uno la scrittrice abbia fatto la tuttana e poi sia ricca, o che uno abbia avuto una vita singolare. Poi comincia il testo. Affanculo, io sono un rocker. Se tutto là fuori cospira a tapparmi le ali, niente potrà impedirmi di scatenarmi qui, su questa tastiera che invece di suoni produce parole. Avete sentito parlare di quegli uccellini che quando gli apri la porticina della gabbia, invece di volare via, se ne restano lì dentro la loro prigione? Ebbene, io è da quando sono nato che sfondo gabbie. La prima cosa a starmi stretta furono le fasce in cui mi aveva avvolto mia madre. Per questo strillavo come uno scherzo. E a 3 anni mi nascondevo sotto una panca e mi cagavo addosso per ribellarmi all'autorità di mio nonno, non so se mi spiego. Più tardi la porticina da sfondare fu il torace del mio vecchio e adesso la gabbia è mia moglie. Chi la conosce non crederà alle sue orecchie. Proprio così, amici che un giorno leggerete queste righe, la mia candida giovane moglie. L'avreste mai detto? E invece è proprio lei, la mia ultima gabbia, la più innocente, la più insidiosa. E là fuori sapete che cosa c'è? Certo che lo sapete, mi conoscete. La musica, Los Angeles, la vita... Ma andiamo con ordine. Ordine! Sono un rocker, non un coglione. Questo è il mio territorio. Ci pianto le mie bandiere e ci faccio quello che voglio. Devo giustificarmi? E con chi? Con quei tisici occhialuti che parlano male dei libri degli altri perché non sono stati capaci di scrivere il proprio? O con quei tisici occhialuti che leggono i libri per lavoro e appena sbucca la mazzetta sotto banco dichiarano in pubblico di aver letto un capolavoro? Oppure con quei tisici occhialuti che passano la vita a leggere perché non hanno il fisico per vizi più virili come l'alcol, il fumo o il sesso orale? So cosa state pensando, ma vi deluderò, col fumo ho smesso. Insomma, ce l'ho anch'io una coscienza. Il fumo è un vizio che acceca, è il vizio perfetto, fa schifo, fa male e non ti dà nessuna ebbrezza, eppure non riesci a smettere. Come mangiarsi le unghie, altro vizio perfetto. E dietro a entrambi c'è un problema psicologico, masochismo o qualcosa del genere in un caso, voglia di cazzo, il tuo con l'altrui nell'altro. Capite? Tra tutti i vizi ho eliminato proprio quello da pervertiti, non so se mi spiego. E i miei polmoni sono forti come mantici e i miei occhi sono quelli di una lince. Del resto sono 38 anni, vorrei vedere. Io come cambia il linguaggio rispetto al personaggio, no? Tardone, maschio, parla. Sento il diavolo in corpo, questo è il punto. L'euforia che provo qui non mi fa stare nella pelle, è il paradiso, porco Giuda. Per questo faccio fatica a andare con ordine, cioè la libertà di poter scrivere, raccontarsi. A proposito, da qualche parte ho letto che Giuda è il personaggio più importante del Vangelo, perché se non ci fosse stato lui, il disegno di Dio non avrebbe potuto compiersi. Non fa una piega, no? Giuda, l'emissario di Dio, va e tradisci mio figlio, altrimenti non risuscita più. Ma non l'avevo mica, queste sono stronzate da tisici occhialuti. Giuda è Giuda, punto e basta. Un traditore, quindi un porco. Io so quello che dico. E qualche libro lo leggo anch'io, ci mancherebbe. Come si fa a scrivere un libro se prima non se ne ha letto neanche uno? Bisogna pur sapere come ha fatto che ci è arrivato prima di te. Mica puoi scrivere un libro da zero. Anche nel rock è così. Non potrai mai metterti a scrivere canzoni se prima non ti consumi l'orecchio con quelle degli altri. Io ho cominciato presto a studiare le hit altrui, a 9 anni o giù di lì. Ho detto hit, perché la mia prima educazione musicale, lo voglio proprio confessare, non avvenne in presenza dei grandi del rock. Tutta la mia storia artistica in effetti è macchiata da inizi sbagliati. Il fatto è che nessuno mi insegnò mai da dove cominciare. Nonostante certi indizi, che oggi mi appaiono inequivocabili, all'inizio i miei genitori non dovettero avere alcun sentore della mia vocazione. Erano gente semplice, figli del boom, cresciuti a suon di Celentani e Rita Pavoni, per capirci. Così nacqui orfano e autodidatta, un aquilotto che tenta i suoi primi voli imitando le mosche. E quando poi cercarono di rifilarmi un maestro, era troppo tardi. Che andasse ad insegnare a sbattere le ali a qualcun altro, quel gufo impettito, io ormai avevo preso il volo. Un volo sghembo, certo, che a volte mi avrebbe condotto in contrade miserrime. Ma questo giudizio è già il frutto di un senno che allora non sapevo neanche immaginare. Allora seguivo soltanto un impulso, che potrei chiamare l'impulso di stare nell'aria. I suoni sono aria in movimento. A 10 anni smisi di ascoltare compilation per ragazzi, l'ultima si chiamava Bimbo Mix e conteneva più che altro porcherie interpretate da personalità del varietà televisivo, veri maestri di regressione. E trovai la mia nuova postazione davanti al radioregistratore del soggiorno. Sedevo per interi pomeriggi a ridosso del mobile ad angolo, le ginocchia puntate contro le ante più basse, la testa protesa in avanti, il naso a un palmo dal sintonizzatore radio e le orecchie ben avvolte dalle emissioni ventose dei due woofer. Presto cominciai a confezionare le mie compilation. Vagavo tra le stazioni in FM finché non mi imbattevo in uno dei miei brani preferiti. Allora aspettavo la fine della quarta battuta e nell'istante preciso in cui iniziava il nuovo giro mollavo il tasto di pausa. La tregua in cui potevo godermi il pezzo durava un paio di minuti. Al secondo ritornello dovevo ritornare vigile per stoppare la registrazione appena lo speaker fosse tornato a parlare. Poi passavo al modo tape, avvolgevo all'indietro di poco, ascoltavo gli ultimi secondi del brano registrato, lo stoppavo alla fine dell'ultimo giro, prima dell'intromissione dello speaker, mettevo in pausa e ripassavo alla modalità radio alla ricerca del brano successivo. Mia madre passava spesso alle mie spalle, ma non mi disturbava se non per chiamarmi a merenda o avvisarmi che usciva. Non era già quello il rapporto perfetto tra un artista e la tua donna? Ecco, insomma, ci sono anche cose di questo tipo, cioè, appunto, che sono un po' un altro tipo di registro, di voce, che sono, c'è un lettore a cui sono piaciuti soprattutto questi, un altro a cui è piaciuto soprattutto il racconto centrale. Qui. Beh, aspettiamo adesso che ti sviluppi l'ultimo capitolo e diventi un romanzo. Appunto perché non sono io, ma è lui che dovrebbe scrivere. Quando alla fine leggi. Quando alla fine leggi che è stato incastrato, probabilmente vuol dire che terrà famiglia, vuol dire che avrà figlia, la sogna di diventare una rockstar è bello che è andato. E comunque sì, sono racconti eterodossi, nel senso che non sono. Comunque è un po' difficile per i tuoi genitori non pensare che tu. Che ci sei tu lì dentro, capito? Ma tu presti qualcosa di tuoi personaggi, per renderli coerenti. Cioè io non ho né 40 anni, quando l'ho scritto non avevo il problema della paternità, non avevo, ma mi piaceva il personaggio, no? E allora gli ho messo qualche ricordo mio per riuscire a creare... Questo è simpatico, no? Sì, ecco, cioè, così. Dovrei usare le rughe io quando gli questo qua uno ha le rughe quando gli adesso non ricordo bravo, vabbè, comunque complimenti perché... sì, grazie, non so, ecco l'importante se ma io ho letto volentieri il libro di Egon, anche perché l'avevo un po' vissuta già quella storia a Vienna. Sì, è vero. Per cui già, sì, anche lì ci sono delle parti, cioè, tu l'hai vissuta in maniera molto diversa, però il fatto di andare in un paese straniero, di confrontarsi con la lingua eccetera, sì, là c'è un po' ci sono, è intercalato da pretese forse un po' troppo forti. E poi e non ha avuto un edito, cioè io l'ho dato a una casa editrice che non ha avuto nessuno, che cioè un libro è sempre il frutto di tante mani, non solo dell'autore. Pensa quando anche uno lo traduce, c'è anche il traduttore, però c'è un editor che di solito è una persona capace, se un editor è capace ti dice guarda qua taglia, qua aggiungi, qua riscrivi, perché vede, perché alla fine l'importante è il libro, no? Contrariamente a quello che si pensa oggi, dove l'autore viene prima del libro, è più importante il libro, cioè alla fine è il libro che deve essere riuscito. Certo. E per cui l'autore... Si anche con dei tagli, con delle... Cioè, a costo di tagliare, sì. Beh, la traduzione francese della coscienza di Zeno Vita lo Svevo, che è diventato famoso, prima in Francia che in Italia, grazie a James Joyce che aveva contatti con la Francia, aveva 100 pagine in meno, non lo sa nessuno. Ma voglio dire, però succede. Ma lui lo sapeva l'autore. Sì, lui lo sapeva. Questo è importante. Sì, ecco. Però non so se poi gli abbia detto sei d'accordo o no, non so. Però anche perché l'editor ti dice, ma tu vuoi che questo sia un libro per pochi eletti o vuoi che sia letto da un vasto pubblico? Questo è un altro discorso ancora. Però c'è, cioè, allora editor... limiamo qui, limiamo là. Sai, sì, questo può succedere, nel senso che poi... Credo che sia comunque un terreno abbastanza scivoloso perché... Sì. Certi editor snaturano completamente la storia, ci vuole sempre l'implacito dell'autore. Se ti racconto una cosa, Gomorra. Ci sono romanzi pensati ad occhio, perché no? Gomorra. Mi rifiuto di leggere queste cose pesanti. È un libro, non è pesante. No, proprio mi ha rotto. Gomorra non è stato scritto così come è uscito in libreria. io conosco la persona che l'ha editato, una scrittrice, conosco non di persona l'editor Mondadori che l'ha pubblicato e che quando l'ha pubblicata sapeva benissimo di fare il bestseller. Fabiano, da quel che so, potrei sbagliarmi, ma avendo una cerchia di conoscenze comuni, credo che sia abbastanza possibile. Per ora sì, sì. Saviano portò in Mondadori 900 cartelle di materiale che vennero riassunte e ricomposte per formare un libro di 300 euro di pagine. Quindi lì si capisce come anche un libro che è lì lì per diventare un best seller viene confezionato, viene scelto. Ciò non toglie nulla all'autenticità dell'autore. Saviano non è. Poi gli si può accusare di peccare di presunzione per certi aspetti, però ciò non toglie il fatto che lui quelle cose che abbia scritto sono cose della farina del suo sacco. Però per dare un'idea che i libri vengono sempre, soprattutto nelle grandi case editrici, io questo libro ha avuto un editing piccolino, però molto utile, il libro Diego non l'ha avuto, forse se ci fosse stato qualcuno che ha detto guarda qua è pesante, certo, o almeno riscriverlo, accorcia qui, quasi lupa di più, questo purtroppo non c'è stato, molti autori si sentono molto liberi. Dicono che è bellissimo poter arrivare in casa editrice e nessuno ti rompe le scatole e ti fa pubblicare il libro come vuoi. Io non lo so, io penso forse 70 anni arriverò ad avere una coscienza artigianale, artistica tale da potermi permettere questa presunzione. Molti autori poi credono a un certo punto dire vabbè, dai, un attimo, andiamo lì. Sì, ecco, forse questo. Ciao, grazie, Giulia. Attori, scrittori famosi, tutto un altro genere. Grisha e Wilbur Smith, se avessero piantata lì 10 anni fa era meglio, perché tutti gli ultimi libri che ha scritto sono loro comunque cioè, vedi che proprio la fantasia è esaurita, ma cavalcano all'infinito. Ti dico due cose, sì, ormai i poveri Grisha è quello legale, no? Sì, tra l'altro è quello degli ultimi che ha scritto, ragazzi, Plan for Pizza, gli ultimi che ha scritto. Ti dico due cose, loro sono grandi, allora, prima sono mi viene da dire, lei scusare per un discorso del genere, però purtroppo bisogna avere il coraggio di farlo. Non bisogna confondere l'industria editoriale con la letteratura. L'industria editoriale è un campo vastissimo che spesso sconfina nella cosiddetta belle e triste, cioè nella letteratura vera e propria. Cioè ci sono sconfinamenti reciproci, cioè è inutile negarlo. Però l'industria editoriale alla quale appartiene un Grisha non ha quella pretesa. Non ha quella pretesa di durata, di esplorazione, di affondamento anche di conoscitivo dell'esistenza o di restituzione in forma di bellezza dell'esistenza umana che ha la letteratura. Se non che sono degli ottimi artigiani, perché sanno come tenerti incollato al libro e spesso non sono da soli, sono cioè sotto John Grisha sono dei fanno del brava. Dietro ogni libro ci sono dei dati di mercato per sapere quale storia può raggiungere un certo tot di vendite. E spesso dietro a John Grisham si trova l'autore con un team di ghostwriter, si chiamano, cioè scrittori fantasma, che sono anche quelli perfetti artigiani della scrittura, anche Balzac aveva diverse persone alle sue dipendenze. Un po' come i pittori che avevano la bottega. La bottega. Per cui, ecco, questo bisogna esserne consapevoli. Però poi tu senti che magari, d'altra parte anche lì, come è successo a Andrea De Carlo. Andrea De Carlo, che negli anni Ottanta fu promosso da Calvino, Italo Calvino, negli anni Ottanta era all'Einaudi e cercò di inserire o comunque di promuovere due autori, Andrea De Carlo e Tondelli. Tondelli è diventato il maestro di tutta una generazione di scrittori sportivi, io li chiamo, che si ispirano a lui, per me non è importante. Andrea De Carlo, io ho letto i primi romanzi, è stato per me il mediatore tra la letteratura di intrattenimento e la vera letteratura, se no che lui stesso, i primi due romanzi, è subito entrato nella letteratura di intrattenimento. Ha deciso di fare i best seller, non ha deciso di fare. Voglio dire, Musi, autore dell'Uomo senza qualità, uno dei romanzi immortali per me più importanti, è uno che ha fatto la fame fino alla fine, a cui gli amici pagavano. Mi sembra che avesse un editor, si chiama, molto poco tagliente. Sì, evidentemente. due volumi così, ce l'ho su comodino 90 anni. Poi il primo no, sono riuscita a leggerlo a forte, con mio fratello che lo diceva, è in assoluto, il più grande capolavoro del... A uno è più grande, wow. A uno è più grande. Io quando ho letto il primo Musi ho detto potrei leggere per 5 anni, mi sono detto potrei leggere per 5 anni sempre solo questo libro avrei continuamente a mentale. È inarrivabile. Come terzo al mare mi porterò il no, non farlo, non è una lettura da spiare. No, assolutamente, dimmi grazie. Non te fai va bene. Va bene, grazie. No, io vorrei un libro se lo. Prego, prego. Allora, siccome qua ci sono copie delle 3 copie mie, te ne do una mia. Eh beh sì, No, prego. No, mi dici... Venga su,